La manifestazione a Modena è stata indetta quando c'era già l'udienza il 3 aprile del coordinatore nazionale del SICOBAS. L'obiettivo sempre di questa manifestazione è contro la repressione, perché l'attacco, noi crediamo come SICOBAS che questo attacco che sta arrivando adesso su il coordinatore nazionale, il tranello che è stato costruito per fermarlo, non aveva obiettivo fermare la lotta dei lavoratori che si auto-organizzano con questo sindacato. Noi credo che nei ultimi anni abbiamo conquistato tanti di quei diritti e di quella dignità all'interno dei magazzini. Siamo riusciti anche a spingere il Job Act, l'articolo 10 sulla rappresenza, grazie all'unità dei lavoratori del SICOBAS, e oggi con questo governo adesso abbiamo un ostacolo in più, che ci sono adesso più ricatti sul permesso di soggiorno, stanno cercando a criminalizzare i scioperi e i scioperanti, e quindi stanno bloccando queste lotte e stanno processando tutte queste lotte che sono state l'unica cosa che ha ottenuto diritti e dignità di questi lavoratori. E quindi questa repressione che sta alzando e sta uscendo ancora più chiara sulla città di Modena, che lì la prefettura, la questura, abbiamo visto solo chiusure, non aprono neanche il dialogo. Quando si parla all'interno della prefettura di Modena si parla solo dell'ordine pubblico, ma non si parla mai dei diritti dei lavoratori. E quindi era chiaro sull'avvertenza di Italpizza, l'avvertenza di Alcaruno, l'avvertenza di Castelfrigo, che la risposta del governo attuale nel fronte delle rivendicazioni delle operai: repressione, denunce, manganelli e arresti. Noi tramite queste manifestazioni vogliamo far sentire la voce di questa organizzazione sindacale e dare una continuità alle nostre lotte e dire che tutti questi ricatti non ci fanno dei passi indietro, anzi siamo più determinati, perché sappiamo che siamo nel giusto e che le nostre rivendicazioni sono giuste, e che l'arresto di Aldo non è altro che reprimere queste lotte che sono l'uniche che hanno ottenuto diritti e dignità dei lavoratori. E solo un'altra cosa, voi insieme a Coordinamento Migrante inizierete anche un lavoro di inchiesta, diciamo di ricerca, su quelle che sono le condizioni di lavoratrici e lavoratori, soprattutto nel campo della logistica. Ci sono delle interviste del Coordinamento Migrante ai lavoratori della logistica, perché nel nostro sindacato quasi l'80% dei lavoratori sono lavoratori immigrati stranieri, che trovano difficoltà nella comunicazione con la società, trovano difficoltà a arrivare alla TV, perché purtroppo la TV e i giornali fanno fatica a arrivare all'interno dei magazzini per vedere come sono sfruttati i lavoratori, con quali condizioni e quali sono le ricatti e gli ostacoli che hanno questi lavoratori. Perché fino ad oggi forse la TV o i giornali è facile andare in piazza e vedere un piccolo errore di uno straniero o immigrato e vieni puntato il dito fin da subito, mentre che ci sono altri migliaia di immigrati che lavorano giorno e notte per la società all'interno di questi magazzini, perché nella logistica tutti i pacchi dell'ospedale, tutti i pacchi che arrivano nei supermercati, i vestiti, qualsiasi cosa nella logistica arriva tramite la logistica, che nella logistica la mano d'opera principale è una forza lavoro immigrati. E quindi c'è queste interviste che sta facendo il coordinamento immigrante ai lavoratori per capire meglio come questi lavoratori sono sfruttati, e portare le inchieste all'interno dei magazzini, non sui singoli errori di qualche immigrato.